attenzione, attenzione al canale 10, c'è qualcuno. Ola, ola, ola, ola. Ola, attenzione. Claudio, ci sei? Io ci sono qua. Claudio, ci sei in ascolto? È arrivato, sei Luca. Veglia. No, non ci deve essere Claudio. Si vede che no. Vediamo che accendo il PMR, vediamo se è in PMR, aspetta. No, non risponde nemmeno il PMR. Ha risposto uno con un fischio, Luca, ma non so che sia. Sarà dormito. Ah, vedi, poi dice, non entri più. Vabbè, si è ancora addormentato, infatti. Vabbè, la sera cosa fai, tanto? Tanto prima di quell'ora non c'è mai nessuno per questo, dunque. Se si fa la pennichella è meglio. No, io vado davanti alla televisione che stavo guardando dalle 2:30, stavo guardando la gara ciclistica del Giro d'Italia, la tappa, la 12ª tappa. E dunque ha finito proprio qualche minuto prima di chiamarmi tu, per cui va bene così, dai, adesso ho finito lo sport, adesso a stanotte a vedere altre notizie di sport, avanti tu. Ah beh, sì. Ascolti, dai, devo staccare che ho la finestra aperta, c'è un sacco di corrente anche, perché il cavo, come hai visto nel video, mi entra dentro la finestra adesso. Ed è collegato al rosmetro. Ci ho mandato anche il video. Cappa. Ok, chiudi l'uno, non c'è problema, ci sentiamo dopo, dai. A dopo. O qua, o là, adesso già stavo per questo, senz'altro. Ehi, ok, giù a dopo. Cosa c'è che fai da criticare? Drumito di vecchia. Ci date di sì. Tu devi scattare. Quando ti chiamo devi scattare. Sono attenti. Come quando vedi militare. Ma veramente non l'ho mai sentito la radio, l'ha sentito mia moglie, quindi, perché la radio è sempre accesa. Toglietevi dalla testa che a me non mi potete fregare. La radio è sempre accesa, se non ci sono io ascoltando già c'è qualcuno. Io non ne sarò mai guardando la televisione. E quindi ho sentito che mi avete cercato. Cos'è che vuoi Luca? Cos'è vuoi? Drumito sei tu. Io non riposo dopo pranzo, io ce la fare, io dalle 3 alle 5 sono impegnato a lavoro. Così è. No, ma siccome tu sei spalliero, come si chiama, controllo, com'è la guarda studia, non me lo ricordo più. E dunque se vi va un controllo a Luca che ha messo su la nuova antenna, se l'ha fatta con un cavo più robusto. Appunto voleva sapere, ma adesso l'ha portata dentro, no, siccome l'ha messa nel parascensore e il filo gli passava attraverso la finestra aperta e c'era corrente, non era al solito posto l'antenna, ce l'aveva nel palo di prova dove lui utilizza come tipo ascensore per fare accordare le antenne, tutto lì. Vabbè, dai, vuol dire ci sentiamo dopo. No, appunto, ti stavo che appunto ho detto, devi scattare quando ti chiamo. Oh, yeah. Mi devo dormire qua. Affolmente fortunato, ieri era sotto Codron Jones e ha chiamato torre di controllo, siccome lo sentivo solo io. Ha detto torre di controllo in ascolto, uscita prima galleria, confluenza a destra, stai attento a non pigliare o guardare la giudizio. Impossibile. non so chi è il telefono acceso, per quello che ti ho chiamato, se no cosa. No, perché siamo passati per non disturbare, su 10. Ah, io sono anch'io. Ho giro lì sul 30 e poi vado là. Adesso quando. Chiedo un controllo a lui, ha detto Luca, no, ma te lo passiamo su 10, che Claudio sicuramente lì l'ascolto, e infatti è così. Per cui ci abbiamo beccato. No, ce l'hai sempre accesa quella radio, soprattutto quando, da quando sto usando il DAC, perché sto usando il DAC con il Turner, capito? E quindi è sempre accesa perché la stavo perdendo, gli ho messo di nuovo, e di nuovo, ho detto, boh, adesso la usiamo, visto che esce così bene. Vai, stai zitto. Ma, gnasignari, ciuppa. Beh, sono riuscito a chiudere la finestra, ti ho sentito fuori proprio in tempo. Sono rientrato, dai, ho chiuso la finestra, sono riuscita un pochino a chiuderla. Claudio, è l'accessore, quella che hai visto nel video, dai, un controllino veloce così nella pigio. Aspetta, no, perché cambio radio, che il keyboard è più preciso. Aspetta, fammi commutare. Visto la Luca, te l'ho detto, guarda che sicuramente è in ascolto su 10, infatti così era. la persona che era in ascolto per lui, perché lui alla prima chiamata non ha sentito, poi mi hanno fatto l'ambasciata da casa. È per quello che mi è venuto a ridere, perché l'hanno avvisato che lo stavo chiamando Luca. Ma già c'è sempre gente in ascolto qua. Vieni avanti Lu, fammi vedere. Considera che nel palascensore non è sul tetto. Allora nel palascensore già sei 9 più 30 col K, col 440 sei 9 più 30. Segnale precisissimo, perché questo è stato tarato da Fabrizio con gli strumenti, lo strumento, quindi 9 più 30. Ottimo per la truppa. Ok, d'accordo, perfetto. Segnale geniale, allucinante. Vabbè, sei 10 dB più di Giulio. Giulio 9,20 spaccato. Lui a me invece mi dà sempre 9,18. Io le do 9,20 giusto. E tu sei 9 più 30. Bel segnale veramente. Sei uguale, arrivi uguale a come mi arriva Marco Condor. Quindi ci avete lo stesso segnale, considerando che lui è qua vicino a me e tu sei a Punta di Casino. Allora io a Marco gli arrivo 9,20, mi ha detto 9,20 a Giulio. Corretto Giulio? Sì, è così. No, 9,25 la Marco, 9,25 la Marco, Luca ha detto. Ti stai dimenticando 5.S. Ah, è vero. Capita, stavo più attento di me. Sono più matematico di te stasera. Sì, lo segnalo, ne ho preso già. Più di quello cosa vuoi ottenere. Vabbè, dai. Va bene così. E tu, in questo momento, Claudio, ti avevano più basso di segnale, però, rimetti com'era a vedere la portante, 9,10 mi sembra di aver visto, vai. 9,10, questo è il 440, sempre con 20 watt. Forse poco fa era più alto perché sto usando il DAC che ne dà di più di watt. No, il DAC era leggermente più basso, questo è il 9,10 spaccato. È impossibile Giulio, guarda che non c'abbi qualcosa, refere chiuso, attenuatore inserito, è impossibile. Il mio segnale da te è 9,18, io sono in perfetto stato. 1,1 i stazionari, i watt sono sempre quelli, e con questi watt mi hai sempre dato 9,18. Quindi sono 20, 25, 30, 35 modulati. Adesso passo con l'altra radio, vediamo. Ok, Claudio, sì, lo so, infatti il tuo segnale è sempre quello 9,18, ma in questo momento o è freddo il mio o è freddo il tuo, non lo so. Io l'avevo appena acceso, per cui se vuoi ti faccio il video, non c'è problema. No, il mio non è appena acceso, il mio è da stamattina alle 7 acceso, non c'è un problema. Questo è il DAC, c'è qualcosa in più di watt, vediamo un po'. Mi stai arrivando adesso con lo stesso segnale del K, adesso sì, con lo stesso segnale del K, che poi non è nemmeno 10 pieno, è 9, diciamo, 9 più 9, dai, non è proprio 10 pieno. Molto strano, controllati la radio perché c'è qualcosa che non va. I watt sono sempre gli stessi, anzi, ti dirò che con questi watt del DAC sono superiori a quelli del, perché questo c'ha 30 watt di portante, 50 modulati, mentre il 440 ne ha 20 modulati, 35 e 40, quindi mancano 10 watt, perciò non lo so. Controlla comunque per non sapere né leggere né scrivere, perché Luca, da te quanto sono? Questo è forse il segnale, claro. Considerando lo smitter di questo apparato, sì, 9,40 a portante e 9,50 passi a modulato da me, ma considera questo smitter, questo strumento. Sì, attenzione, con lo strumento di quella radio che hai è molto precisa, perché già ne arrivo 9 più 30, fatti il conto. No, mi sembra strano Giulio, perché lui il segnale ce l'ha. Diciamo che è leggermente più basso del solito, però col picco di modulazione arriva quasi a 9,20. Ma io che sia a Santiago 9 c'è qualcosa che non funziona. 9,10 ho detto, non 9, Santiago 9 più 10, qua, 9 più 10. Adesso ti disponisco il video. No, video non me ne mandare perché WhatsApp non ne ho. Mi fido di te, se 9,10, però c'è qualcosa che non mi convince, perché ti ripeto, io sono a posto, infatti sono qui, l'istazionario ne ho, la radio, questa addirittura ha più potenza anche del 9,40, quindi no, non riesco a capire, vabbè, ma non ti preoccupare, non è importante, se è quello segnale che sta segnando, vuol dire se farà dello fumo lo smitter di chi c'è la radio, come ti se farà dello fumo lo smitter dell'UQ330. L'altra volta che l'ho dovuto regolare di nuovo. Va bene. Vabbè, allora pazienza, non te lo posso mandare su WhatsApp. Pazienza, vabbè, non fa niente, dai, comunque così, tranquillo. E che motivo di dirti una bugia? Ci mancherebbe altro. Cosa facciamo? Le macchine vengono, facciamo gli schemi, no? Ci mancherebbe. Va bene, comunque è un ottimo segnale sempre, dai. Poi cioè, dipende dal mio smitter, può darsi anche, perché già lo sai, te l'ho detto il difetto che ha, e può darsi che sia collegato anche a quello, che ne so, boh. Aspetta, rispondendo a Luca, là, passerà. C'è qualcuno su 10? Attenzione, canale 10, canale 10, ascoltate doppio lungo che chiama. Sì, sono qua Gianni, sono arrivato, sta arrivando anche Claudio. Ehi, già, sono qua. Sì, è ben altro pubblico la finestra, ci sta meglio, draghiati. Ehi, ma la batteria gliel'hai cambiata quel microfono? A questo no, a questo qua no, non glielo cambio. Già, perché sto facendo quel difetto di ieri, e la devi cambiare. Sparisci di radio mentre stai parlando. Ehi, non mi sta segnando. Già, sei sparito di radio. Aspetta. Cambia la batteria, perché sto facendo quel difetto l'altro giorno, capito? Quando giù non mi hai detto niente, sto usando un corno di bue. E cosa ti devo dire? Figurati se hai bisogno di essere informato. Quando tu apri la bocca sei già informato da solo, per cui va bene così. E se non te l'avrei già detto, sì, certo, ma siccome sei alla grande, come sempre, non c'è problema qua. Chiaro grigio. Magari tutti facessero così, magari. Oh, ti ho compreso, Io non mi escludo mai da niente. Bene, bene, bene. Avanti Gianni, vediamo un po' se arrivi in questo momento. Schiaccia bene. No, deve cambiare la batteria giù. Sì. Sto usando il DAC, gli ho messo le valvole nuove. Sto usando il DAC con l'antenna più 3. Va benissimo, così lo facciamo andare, perché insomma, usare sempre il K non è che vada tanto bene, dai. Va bene anche questa. Sì, 9,10 pieno. In questo momento sì, 9,10 pieno con quel K lì. Cioè con quel DAC lì. Sì che va benissimo. E vabbè, tu tanto mi sono rubendo, che è inutile che te lo dica. Niente, niente, niente. Era solo un mio pensiero. A me. A te, vai. Ehi, l'ho abbassata oggi, adesso la bobina a 2 metri, 2 metri e mezzo. Ti ho mandato anche il video, mentre parlavi. Vedi un po', se mi sentite, di segnale. Sì, 9 più 15. 9 più 15, va benissimo, la buia se ti sento. E tieni la bassa lui, dai, tieni la bassa, così almeno possiamo parlare qua. Ehi, me, guardati il video, l'ho abbassata. Mi sarà abbassato anche da Claudio probabilmente, ma già va bene lo stesso, dai. No, vabbè, appena appena ti sei abbassato lui, no, non ci sono problemi. Da 9.30 sei 9.25, dai. 9.25, non c'è problema, va bene lo stesso. Ok, io ti volevo far sentire il DAC, questo è il DAC con il Turner. Va bene, no? Si può usare. Ne ho visto uno in vendita. Ok. Ne ho visto uno in vendita, ho messo tutte le foto, questo, aperto, ci vedono le valvoline, capito? E a quanto non l'hai visto? Non è qua, l'ho visto su Facebook. Non so se è $250, boh, aspetta. $350, come l'ho pagata io? Io l'ho pagata $380, avevamo un discorso con Gianni ieri, no, non si può dare di meno, l'ho venuta la radio, è una radio che costa, è una radio che non trovi molto facilmente, quindi cosa vuoi fare? Non è che la puoi regalare, Adesso metto leggermente il Mickey Gain più alto, aspetta un attimo, allora ce l'avevo a 1, adesso lo metto, ecco qua, metto giù, così l'ho messo a 1,5, non va bene? Ho detto va bene, aspetta, va benissimo, no? Non bene, va benissimo, va. Dai, datemi un minuto che uso il coso, lo sto a bandino, penso l'orecchio, perché ho un orecchio tappato dal cerume, che sto utilizzando uno spray che sembra che mi stia facendo bene, dai, mi prendi Luca. Datemi 10 minuti anche a me, intanto qua ti cerco quell'annuncio. Dai. Buonasera anche lì, ben ascoltato. No, fammi capire se praticamente è $350 o $380, perché a me praticamente mi hanno offerto quel tanto, insomma intorno alle €400, dai, ma hanno lo stesso, non me ne frega niente. Ciao Tony, buonasera, avanti. Capo, buonasera, so chi c'è in ruota. Ciao Claudio, ciao Giulio, sono Valorato, poi non lo so. Sì, 2 passaggi e poi devo uscire. Avanti qua, allumina chi c'è. Ehi, sono io Giulio che si è allontanato un attimo, c'è Luca Flipper e poi c'è Gianni Fiorù. Ok, tu ancora a casa, sì. Ehi capo, io rientro lunedì adesso, comunque c'è Luca Flipper. Come radio, va bene, sì, la batteria con la buona. Sì, vai benissimo. E anch'io sto usando il Turner più 3 col DAC. Vai benissimo alla grande. Ok. Avanti Giulio. A te arriva bene, sì. No, riprendete voi un attimo, dai, che sto stonando le orecchie. E riprendete. Ciao, tanto, ti saluto. Dai, Luca, riprendi. Ehi, Antonin, che sta facendo un'operazione all'orecchio, Giulio, dai. Sta mettendo una medicina. Sì, arrivi bene, Tony, non c'è problema. 9.10 abbondante qua sul DAC, radio 5 perfetta, sto usando anch'io lo stesso microfono tuo. Quello nero, sì? Sì, quello nero. Già va bene. Si dirica, super. Sì, va bene, è il microfono suo, il DAC riceve questi tipi di microfono, anche la MB più 5 funziona molto bene, non c'è problema. Caspita, mi sta dando ora, ehi, quasi 50 watt, ma c'è la valvola nuova, finalmente ce l'abbiamo in funzione. Capa, però quando aumento mi va innesco con le cuffie. Va bene, dai, devo fare una scappata, devo fare una commissione, grazie. A caso ci risentiamo più tardi, non ti faccio il colpo di massa, vecchio. Ok, buon proseguo, ci sentiamo. Ciao ciao. Ehi, sentiamoci dopo, Tonida, intanto su WhatsApp non posso risponderti. Se farò da l'uomo di Londutti, ci avevo stamattina c'avevo qualcosa, poi evidentemente l'hanno nuovamente staccata perché sto cambiando compagnia, capito? Beh, sentiamoci dopo al telefono al limite, ciao. Ok, ciao ciao. Ok, ciao Tony, ciao. Sono appena rientrato, dai. Lo scrivo la bandino ho utilizzato qua per stappare l'orecchio, perché ogni tanto mi si tappa un orecchio, si vede che ho del cerume, ma sto utilizzando uno spray e sembra che mi stia facendo bene, dai. Sono già qualche giorno così, 3 giorni, ma sembra che stia facendo bene. Vuol dire che già sta andando, sta facendo il suo coso, come si dice, il suo percorso, però stai mettendo l'ottomidone. Aspetta che te lo dico subito, questo qui si chiama Anaurette, è uno spray, c'è una cosa, si infide nell'orecchio e fa una frustata, spray, 3 volte al giorno, mattina, pranzo e notte. No, io avevo avuto lo stesso problema tuo e l'otturino mi aveva dato l'ottomidone, che erano delle gocce da mettere. Mi faceva l'orecchio nero, cazzo, mamma mia che schifo. Vabbè, quello non è un problema, questo già è roba chiara, sembra acqua, una cosa un po' oleosa e serve appunto per sciogliere il cerume. Vabbè, con il lavoro che ho fatto io, con i rumori, eccetera, il cerume è chiaro che cresce sempre. Adesso vabbè, ero tanto tempo senza sentire i rumori, però uso sempre le cuffie, uso la notte per parecchie ore, dalle 10 tante volte fino anche alle 2 del mattino, e anche quello contribuisce a farti crescere il cerume nell'orecchio, e poi magari ti si secca e allora incomincia a fare l'attacco e non va bene. A momenti ti si stappava e a momenti no, ma adesso sembra che sta funzionando e va bene così. Bene bene, Gianni ci sei? Gianni è sparito? Vai qua. Hai aspettato un attimo, no, non è sparito, è andato a mettere la batteria al microfono. E cosa gli sta mettendo? La batteria della macchina gli sta mettendo. Tutto il tempo per mettere. E va bene, sarà al telefono anche lui. Non c'è problema. Bene, bene, bene. Me ne è una qua, cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così. La vecchiaia. Ehi, vabbè, già ci vuole, devi aprire il microfono per cambiare la batteria, con la rottura di balla. Ci si stacca il rubomello, è un casino. A me c'era staccato quello del MB più 5, ci ho messo un'ora per mettere la batteria. Perché l'ho aperto tutto e mi è uscito il pomellino quello di plastica. Va bene, ottimo per la truppa allora, vai. Sono contento che questa radio funziona magnificamente bene. Che tutto se funziona? Sta sempre aumentando il segnale. Adesso, vabbè, qua deve volare, essendo da volare già lo sappiamo, che man mano che scalda meglio aumenta anche il segnale. Adesso si è già a 9,17, sì. Dunque, vedi bene che dall'inizio inizialmente era a 9,10 quasi, poi ha incominciato ad essere bello centrato a 9,10, adesso si a 9, no aspetta, 9, non 9,17, 9,12, sto sbagliando io, 9,12, sì che sta sempre aumentando qua, va bene così. Già va bene, beh certo, vediamo, è ghiacciata, come, ieri già era bella calda. Perché l'ho accesa alle 5, quando sono rientrato, 5 e un quarto, sono uscito alle 4 e mezza, alle 5 e un quarto l'ho accesa, quindi invece ieri era tutto il giorno accesa, dalla mattina fino a... Allora aspetta che era più di mezzanotte. Un attimo. Gianni. Dai, ho provato una batteria che ci avevo a seconda mano, bene sta andando. Sì, io ti sento benissimo, non c'è problema. Allora ci butto l'altra. La vorrei mettere nuova, lo sai cosa è successo? Che quando l'ho aperto... Un uomo senza radio, porca miseria. No, di nuovo. non è la batteria, no, qua, questo è il problema del microfono. Già, secondo me non è un problema di batteria, sparisci completamente di radio, non è un problema di batteria. Gianni, no, secondo me non è un problema di batteria, è un problema di microfono. Assolutamente, assolutamente no. Vabbè, dai. Sì, qua, ma è così, è d'altronde. Ma anche io l'avevo messa, quando è? La settimana scorsa l'ho messa, sabato scorso l'ho messa la batteria nuova. Guarda che avevo prima, come minimo ce l'avevo 2 anni, forse anche di più. Adesso l'ho messa nuova, anche se quella non funzionava ancora, però visto e considerato che non c'erano più i 9 volt, che era 7 volt, quella ormai era un po' consumata, allora ho fatto bene, adesso la cambio. L'ho comprata qui nel negozio vicino a casa, se la vendono tranquillamente e va bene così, nessuno mi ha detto niente, vuol dire che funziona alla grande. Allora funziona alla grande, vai Gianni. Adesso funziona anche la mia, perché avevo sbagliato, avevo rimesso quella scarica, adesso già sta andando perché lo vedo dallo strumento. Adesso sì, adesso va bene, se non ci fa la bomba già va bene. Questa è bella, va a cambiare la batteria, la toglie e poi rimette quella vecchia. Dammi. Perché ce l'avevo sul letto, capito? Ho sbagliato a prenderlo, ce l'avevo tutti e due vicini. Una sagoma, no, una sagoma. Gianni, vabbè, già può capitare, dai, non c'è problema. Comunque già stai andando bene adesso. Ottimo per la truppa. Sì, va bene così. Gianni, chiuso mai questo microfono? No, vi devo chiudere il coperchietto piccolo, quello piccolino, e poi ho finito. Mi sembra che avevo capito che stesse chiudendo il compecchio del gabinetto. Già non mi fai ridere stasera, che non lo voglio, dai. Vai qua. Devo farti ridere e farti piangere. Il compecchio si chiama, tappo, chiama la 22, poi si fa un tappo di comodo. Stasera mi fai ridere proprio, così, in maniera simpatica, già. Sempre il tappo, mi Giulio, poi si fa un tappo di comodo, sempre il tappo, Questo è possibile. Vediamo se c'è Marco, perché poc'anzi c'era Marco, ci sei all'ascolto, aiuto. Bussa Marco, all'ascolto c'è, amico, c'è che solo che non risponde. Perché c'è senz'altro, perché mi ha ritracciato poc'anzi sul 30 e adesso, vabbè, probabilmente sta facendo lavori in cucina, sta preparando il minestrone. Lui era, non lo so, lo era sul 30. Sì, perché inizialmente per non disturbare, per dare controllo a Luca, siamo passati sul 30. E io lì in attesa che arrivasse Luca, io c'ero già e mi sono messo a catechiare così, no? Sono andato al nonno, non me ne fregava niente, ho incominciato a catechiare aspettando Luca, e ci ha debatto Marco. Ah, così, vabbè. L'importante è che ci siamo, non cambia niente, già va bene. Beh certo, avanti già. Gianni, buttalo via, quel microfono buttalo via. Certo già, torna che non sia uscito di radio, ma non è che c'ha problemi il microfono. Gianni, guarda che domani mattina passa lo spazzino, mettilo dentro la batomiera. Vabbè, purtroppo ci vuole poco, mi ha fatto di tirare il microfono, si allunga e qualche filo si stacca e magari alle volte fa contatto, alle volte no, e sarà quello il motivo per cui sparisce il radio, perché di portante arrivo, ma del radio niente. Vai qua. Mi ha breccicare. Hola, ci siete, sì? C'è Nicola in PMR, qua, come arriva? Aspetta a vedere. Ci arriva. Aspetta. Vediamo se ha ripreso Gianni. Non so se era qua Gianni. Sì, l'ho sentito Nicola, arriva. Ma quando l'ho sentito io era molto più chiaro, sicuramente era piazza dei segni in macchina. Probabile, guarda, ma vivo meglio in PMR che sul barattino, guarda, veramente, guarda. strano, ma ha visto quanto evidentemente in OHF dalla posizione dove lui è molto favorevole verso di me, sarà così. Se te l'ho detto, basta un niente, proprio un niente che non ti senti. Invece, vedi, se c'è appena un varco tranquillo, senti tutto. E infatti per quello che gli ho voluto dire, visto e considerato che lui ha poca esperienza, tra virgolette, in fatto di frequenza, gli ho voluto puntualizzare che doveva eventualmente rimettersi dove era adesso, in modo che io lo sentissi bene, perché già lo sai com'è, non c'è bisogno di dirtelo, basta che ci fosse un attimo, magari non lo sento più, oppure lui non sente me. È per quello che gli ho voluto puntualizzare il discorso, capito qua? Se ogni tanto sbaglio un microfono, c'ho due microfoni uguali vicino, ogni tanto mi giurito e la radio è spenta. Porca miseria, che rincoglionito. Vabbè, se ce li hai vicini, cosa ci vuole a scambiarlo? Non ci vuole niente, no? No, io sto usando sempre il famoso MB4, prima versione, probabilmente, e vedo che va benissimo, dai, alla grande. Alle volte mi ascolto, hanno chiamato in PMR, vediamo se è lui. E tu a me mi dicevi, adesso sto parlando in tutti e due io, sto parlando in tutti e due, sia il 27 che in UHF, perché non so se tu mi ascolti il 27, vai. Hola, attenzione canale 10, c'è qualcuno? Sì Gianni, aspetta un attimo che sono in PMR con Nicola. Per provare il microfono, come sta andando? Che era PTT, dai. Aspettami Gianni, sta andando bene il microfono, aspetta che sono con Nicola, aspetta un attimo. Gianni. Ehi, perché non passate qua sul 10 Giulio, che Nicola non lo sento io. No Gianni, Nicola, non sul 10 non arriva, sul 10 non arriva, in PMR mi arriva benissimo, non bene no, addirittura meglio della 27 mi arriva, guarda, è proprio una telefonata, veramente. Sì, perché in questo momento il 27 non sta andando bene lui, non so, forse sempre per questione di antenna, evidentemente è così, capito? Tu comunque stai facendo bene adesso, Io ho messo un po' di CRC nel PTT, dai. Infatti era una questione di contatti già, perché arrivava l'importante ma non riusciva nel radio, si vede che c'era un po' di ossito nei contatti del microfono, il motivo era sicuramente quello. Va bene, interessante che adesso esca, la radio è bella, sì, pimpante. È alla grande, veramente, molto bella, molto pimpante, come sempre già, alla grande. Vabbè, dai, interessante è quello. Se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare a farmi compagnia, ok. Avanti Nicola! Ti senti ma non ti rispondo, non ti può rispondere. Aspetta che lo chiamo a PMR. No, che sta rispondendo, aspetta giù, avanti Nicola. Santiago Lope, ma la radio è un po' bassina, c'è un po' di QRM, Santiago Lope, KK, soddisfatto o rimborsato? Già va bene, dai, solo che qua per me è una zona d'ombra nei confronti tuoi, capito? Probabilmente è quello. Anche io giuro lo sento bene PMR, lo sento bene sia lui, sia Claudio, sia tutti quelli del latte dolce, li sento tutti, tranne che a te che non ti sento bene, non ti sento per niente, brutto. Sono contento per te. Meglio della 27, sto parlando con lui adesso al PMR, con te al baracchino. Sì, mi arriva meglio della 27. Ti avrei voluto far ascoltare già, solo che quando io schiaccio la portante qua mi annulla la modulazione sua, perché essendo troppo vicini, però ti avrei fatto ascoltare come arriva Nicola qui da me in PMR. In PMR. L'avrei traslato, però ripeto, essendo troppo vicino, io come schiaccio la portante annullo la sua modulazione del PMR, capito Gianni? È quello che ti volevo far ascoltare, mi dispiace ma purtroppo non è possibile. Ok, vai Nico. KK, avanti se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare, ho sentito la portante là. Già, ero io già, probabilmente ero io, pensavo, no, volevo rispondere a Nicola, io purtroppo, Gianni ti sentivo in 27 io non avevi proprio per niente del radio, nulla qua, evidentemente la posizione dell'antenna per me non va bene, è così, Nico, va bene, là. Sistemerai di tutto, dai, non c'è problema, ok? A me sta dicendo, non ho capito. sicuramente se ne fa almeno a Giulio o Lupo Grigio. No Gianni, stavi parlando con me alla, in PMR, aspetta Gianni. No, che ha parlato qua, ha detto se ti è entrata acqua nell'antenna, buco. No, sì, già l'ho sentito, l'ho sentito benissimo, ti ripeto, lo sento benissimo in PMR. No, lo sto rispondendo infatti. È l'unica cosa che fa sentire la modulazione sua in 27, dal PMR alla 27, così almeno possiamo capire tutto. Pare che sto scherzando, non si può traslare, sto scherzando, ho Lupo Grigio. Non si può traslare, capito, la frequenza di un apparecchio nell'altro. E se è veramente vietato. Kappa. Avanti, Giulietto. Già, no, stavo rispondendo a Nicola che mi ha chiesto, non dice che hai l'antenna bagnata, no? L'antenna mia non si bagna, perché all'interno della canapa che è tutta sigillata, no? Non può entrare acqua nella maniera più assoluta. E poi so che funziona benissimo. Poc'anzi ero con Claudio 9+20 da lui, si può immaginare, c'era anche Luca, c'era anche Marco, per cui va benissimo. No, Nico, se mi stai ascoltando, è solo questione di posizione della tua antenna, sicuro al 100%. Bene, avanti già. Oggi non so tu con quanti fatti stia uscendo, però qua questo apparecchio era sempre molto restio nei segnali, dava sempre dei segnali in meno, adesso ti stai andando più in fondo del dB, fatti rugotto, non ho capito, quanti fatti c'hai? Guarda già, a me me ne sta segnando, ecco, 15 me ne sta segnando, più o meno, dai, 14-15. Però, siccome ti ho detto che il carrier si era agguastato, e dunque non lo so da cosa dipende, forse vuole pulito con lo spray, eccetera, e non so cosa dirti già, si sta levando un 3 dB, vuol dire 9,30, ed è il mio segnale che mi hai dato sempre, però. E adesso sono 14-15 watt, perlomeno leggendo lo smitter è così, qua è così. Oh, già. No, giusto. Prima ti davo 9,30, arrivava sul più del 9,30, adesso va oltre il dB a fondo scala. Non so cosa dirti già, ti sto dicendo adesso il carrier è inutile che lo tocchi perché non funziona, se lo tocco mi ascolta cosa ti fa, mi aspetta, sentimi, probabilmente fa questo disturbo, guarda, non so se lo stai sentendo, lo stacco di nuovo, hai sentito il disturbo? Sì, io sento la modulazione più alta però, cosa ti stavo dicendo Giulio, comunque... quanto ti sta arrivando di segnale per fare una comparazione, però io sono con 3 watt esattamente, sto scendo con 3 watt e mezzo là. E tu mi stai arrivando quasi 9,20 Gianni, ci manca una tacchetta, due tacchette, massimo a 9,20, va benissimo, se vuoi ti faccio anche il video, mi te lo mando, o perlomeno una foto come vuoi tu. No, ci credo, no, ma io non so cos'è, mi voglio sincerare che non si sia sballato lo smitter, anche se l'apparecchio è nuovo, ma mi sembra strano, però vedi cosa arriva a 9, non sono tutti che arrivano col tuo segnale, Lupo Grigio mi arriva a 9, ma la radio non è buona, dai, è troppo bassa. Vabbè, già, non abbiamo la stessa antenna, no, capita. Poi io intanto sono vicino al microfono, sto usando l'MB4, probabilmente ho tirato su un pochino il mic gain della radio, ed ecco che la radio ci sta arrivando a bomba per quello, con una grande oscillazione di modulazione, sarà per quello già, non lo so, forse è anche troppo forte che ci sta arrivando il radio. La radio arriva sempre bene, però adesso ce l'hai fisso il segnale, mi capisci? Non è un'oscillazione come dici tu, è fisso, tac, di goipu, come se avessi un lineare da bucina 200 watt, una cosa del genere, dai. Va bene, dai, io ci credo, non è che, però te lo volevo chiedere perché volevo sapere se era lo smitter mio oppure se era la potenza tua a farti uscire così, ecco, tutto lì, avanti Lupo Grigio, sei dall'8 al 9, però la radio è bassa, non so se stai uscendo col microfonino piccolo o con quello normale dell'apparecchio. Sì, come prima più o meno, avanti chi vuole entrare. Scusate Gianni, dov'è Nicola? Perché basso di segnale anche qua. Nicola, a casa sì. ho capito, dai. No, è a casa, Marco, è a casa. Non lo so che cosa dirti. Però mi state arrivando tutti un bel forte di segnali, oggi non comprendo cosa ci toccato. Già, ciao Nicola, ciao Giulio, ciao a tutti, sono in ascolto che sto mangiando, ciao. Ciao Marco, ciao, buon appetito. Grazie, grazie. Oh Marco, ti volevo informare, lo sai che Nicola mi arriva benissimo di radio qua in PMR, molto meglio di come mi arriva il 27, ma guarda che strana la frequenza Marco, dai dopo vai a mangiare. Giulio, probabilmente il segnale UHF che è ottico ha trovato un varco e riesce ad arrivarti bene. Capito? Forse passando in FM lo ascoltereste meglio, Nicola. In AM deficita un po' la modulazione, ma in FM dovrebbe recuperare rispetto al segnale, no? Boh, va bene, dai. Ciao, vai Giulio. Te. Ok Marco, e poi altri anche, non lo so, vabbè, faremo la prova quando è il momento, dai, faremo la prova. E per me è entrato Graziano e Gio Maria, gli ho detto di passare qua, quanto sembra non li vuole attaccare Graziano di Barattino. Avanti Gianni. Vabbè, dai, se vogliono passare siamo qua, non c'è problema. Noi accettiamo a tutti. Poi. Ho sentito Nicola lì e corrispondemi, cioè lui là arriva meglio di quanto arriva in 27, capito? È abissale la differenza. Vuoi che te lo dica? A me non arriva per niente. Vabbè, conta che lui è qua in zona, però al baracchino oggi è veramente basso, è Santiago sì. Poi la modulazione è anche bassina, cioè quando scende oltre un certo livello, quando comincia a abbassarsi il segnale ne perde anche la radio, diciamo. Invece là in FM è un bijou, finché c'è segnale è un bijou. Dai, ciao, a dopo, ciao ciao. Aspetta un attimo Marco, mi ha incuriosito una cosa, dici che gli ho inchiodato al lago a Gianni, dimmi com'è a casa tua, perché io sto uscendo con 14-15 watt, dimmi com'è da te o Marco, dai, dopo ti lascio libero di andare a pranzare, vai. No Giulio. Ciao, prova un po', ma in 27 vuol dire, prova. Sì, in 27, certo. E così, Gianni mi ha detto, dice che non sono mai arrivato così, inchiodo largo, non è 9.30, sì, ma adesso mi sto inchiodando largo, a fondo scala. Ma non lo so, siccome lo so benissimo che ha un problema questa mia radio, non vorrei che fosse così, perché se qui mi sta segnando un 14-15 watt, mi sta segnando lo smitter, niente di più, vai Marco. Sicuro. Guarda, qua è un 9+20 Giulio, circa 9+20, un segnale consueto, posso dire, boh, non lo so. Claudio, riprendi tu, prova tu, che io mangio, ciao. No, maestro Roberto, c'ha problemi con la radio. Sì, 9+30, non sei mai arrivato a me così. Questa radio non è dentro 14 watt, ne è dentro 140. Addirittura 9+30, oh, non è possibile. Caspita, e allora è proprio da sistemare proprio questo. 9+30 da te, cosa mai dato un segnale così forte o qua? Guarda, stai sì, sopra 3, 9+30, 9+30, allucinante, non sei mai arrivato, il tuo segnale è 9.15, 9.18, massimo 9.20. Con la radio si solleva la potenza da sola, falla controllare perché rischi di bruciare i finali, Io sto cercando, non funziona, quello è quello mi dà, non so cosa dire. Quello è quello mi dà, non tanto è inutile che io lo tocchi il carriere, tanto non funziona, perciò, boh, strano veramente, sono incuriosito e non capisco come. Vabbè dai, c'è Gianni anche, vai Gianni. Comunque Claudio era il PTT per la cronaca, non mi faceva uscire perché c'era il PTT, sicuramente c'era polvere, le ho messo un po' di CRC e si è ripreso, non era manco la batteria, lui. Vabbè, il sintomo è quello già poi. State a verificare. Oh, avete parlato in due Giulio, ti dico solo una cosa. infatti Gianni, il segnale di Gianni è 9 più 20 pieno, e quando parlate in due io sento Gianni, capito? Col tuo segnale normale. L'hai completamente annientato, stai arrivando quanto Marco Condor. Stai attento perché con la radio ha la potenza manetta, sicuramente. Sì, io gli ho detto che sembrava che stavo uscendo con 200 watt. Mi arriva quanto è Marco qua, il suo segnale 9.15, 9.18 massimo, cazzo 9.30. Ciao. Fastidio ti dammi. Da dire, guarda, sono meravigliato, veramente, veramente meravigliato. Eppure qui in apparenza tutto funziona bene, in apparenza. All'infuori, ripeto, se sto con Carri non cambia niente, così è, così rimane. Boh, l'ho già provato, per cui non so cosa dire, claro. Cosa vuoi che ti dica? Boh, pazienza, se si brucia, pazienza, ce la buttiamo, non se ne parla più. Vabbè, io adesso sai che non hai bisogno di lineari per uscire forte. Segnale geniale, Marco, fastidio ti dammi, fastidio, il tuo segnale è altissimo perché 9 più 30, se parlate in due ti dà fastidio, riesco a capire più a te perché sei più vicino, però è allucinante, cazzo Giulio, 9 e 30 Giulio, Giulio stacca lineare per favore, io... Quale lineare che non ne ho mai avuto, è l'unico che ho avuto, me l'ha bruciato il lampo. Quante lineare, tuia, non è possibile. Guarda, sono sbalordito veramente, non riesco a capire cosa può essere successo, la verità, non ci riesco, perché qui tutto apparentemente funziona bene. Lo smite quando modula, ha i suoi picchi di modulazione, tranquillo e pacifico, non so cosa dire, veramente, guarda, sono sbalordito. Va bene, dai, avanti, oh Gianni. Non ce l'hai per vedere con quanti batte stai uscendo, non ce l'hai attaccato ad un batte. Attaccato no, già ce l'ho lo strumento, ma non l'ho provato adesso. Adesso non mi metto lì a attaccare il wattimetro, no. Oh, per toglierti la curiosità, capito, per vedere se effettivamente è così. Perché adesso ho dovuto abbassare le 20 di Claudio, mi arriva sempre 9.30, gli altri segnali sono uguali e il tuo è sempre più alto. Sai perché non me ne sono accorto probabilmente della variazione di Giulio? Perché io sto sempre toccando, o metto l'antenna diretta, o metto il filtro, oppure a rotazione di apparecchi, quindi tutti gli smitter sono diversi alla fine. E non mi ricordo qual è il segnale vero di Giulio originale, capito già? Io sì. A me Giulio mi arrivava massimo 9.30, aveva dei picchi da 9.20 a 9.30, 9.25 a 9.30. Adesso arriva oltre la scritta DB, cioè vale a dire che mi rompe l'ago se io non la attenuo con l'MFG, mi sfascia l'ago. Ah beh, buono, però l'importante è non vada troppo oltre. Claudio, ce l'ha un limitatore quella radio lì? O rischia di rovinare qualcosa? No, 440 no. C'ha una cosa di protezione, ma per l'inversione di polarità è bassa, capito? Ma hai la ventola attaccata per caso, Giulio? Senti se c'è la ventola che sta girando della radio. No, io aspetta che metto l'orecchio. No, lo sento. Sento solo a te. No, quella è quella dell'alimentatore. No, ma anche toccando il dissipatore è abbastanza tiepido qua, non è caldo assolutamente. Per cui non so proprio cosa dire. Minchia, 9.30 pieno, sì. Io sto ricevendo col K. Sì, sulla punta del 3, del 3. Cioè superi il segnale e lo vedi come lo smette, no? C'è il 9, poi c'è il 9 più 10, il 20, sì, sulla barra rossa dopo il 20, quindi è 9 più 30, non è che c'è da sbagliare, poi lo stesso segnale che c'ha Marco, quindi micidiale, non so cosa sta succedendo con la radio, vai già. La tracciatura l'ho dovuto attenuare con l'RFI, infatti ho detto se era discreto se gli chiedevo con quanti watt stavo uscendo, perché detto, sembra che stia uscendo con almeno 200 watt, dice no, sto uscendo con 15 watt. No, è possibile, no, sta andando molto molto di più, secondo me sono a 70-80 watt più pieni, quasi 100 watt sta uscendo con la radio. Perché è possibile? È impossibile, capite? Siccome io l'ho sentito a Giulio quando solleva la potenza, sale subito il segnale, da 9,20 sale e quindi sicuramente sono più di 50 watt di portante, alla grande. Guarda, io sto andando sono col piccolo della K, non col 430, non col 440, con l'altra, e praticamente sono 20 watt di portante sulla T230 e ho 40 modulati. Il segnale mio è sempre lo stesso, la ricezione va bene, ma la trasmissione sta andando a farsi forte. Giulio, ma a te di strumento quanto ti dà l'apparato? Quanto ti segna? Modulati picchi addirittura di 100, ma è di modulazione però. Ma quello è dovuto all'amplificazione del microfono, che ce l'ho a 5, il microfono l'MB più 4 ce l'ho a 5. Poi avevo tirato su leggermente perché mi ero ascoltato in cuffia e avevo aumentato un tantino anche il mic gain senza superare quella soglia che arrivassi magari alla saturazione. E dunque so che sto uscendo abbastanza più forte di radio, questo sì, senza arrivare alla saturazione. Non so cosa dici io, Marco, ripeto, i picchi di modulazione, un po' perché la voce mia è un po' squillante, eccetera, sto parlando abbastanza normale, e arriva anche a 100, la lancetta arriva a 100, sicché non so cosa dirti io, Marco. Cioè non sono 15, vabbè, comunque, ottimo segnale, meglio così, l'importante è che non surriscaldi, se c'è la ventola che entra in funzione dovrebbe compensare il calore, no? Raffreddarla. Sì, io ho controllato anche il dissipatore dietro, Claudio lo conosce molto bene, questo apparecchio, c'è il dissipatore, ci ho messo la mano ed è appena tiepido, ma proprio normalissimo, un calore normale, per cui non vedo quale problema ci possa essere al riguardo, non so proprio cosa dire, veramente, guarda. Vai Claudio. Vai, tu tieni sotto controllo il dissipatore e soprattutto tieni sott'occhio se la ventola si inserisce facendo passaggi lunghi, la ventola si dovrebbe inserire, perlomeno la mia ancora non si è inserita, ma questa è fredda, ancora deve scaldare, però il 440 e il 430 sono accesi in altre bande e sono tiepidi, anche il coperchio è tiepido, ma è da stamattina acceso, io lo lascio acceso la mattina tutte e tre, poi me ne vado, esco, capito? A volume basso, con l'antenna a zero, però le accendo, tutti i santi giorni devono essere accese con le radio. Vai già, tieni sotto controllo il calore e tieni sotto controllo il dissipatore, e vedi un po' perché di potenza stai andando, cavolo se stai andando, te l'ho detto, sei 27-28 sulla portante e 30 a picco di modulazione, quindi i watt ci sono, rispetto al 9-18, quasi 9-20. Perciò dimmi ce n'è in più, vai già. Così non mettere lineare, non c'è bisogno di lineare. Potenza light, limitata e potenza libera, dai. E potenza libera, senza filtro, senza nulla. Kappa, Marco, vai. No, quello che avevo io era limitato, era quello originale, 40 watt in AM mi pare, l'importante muta forse, non mi ricordo più, non era la versione aumentata di watt. No, prendete voi, non ne voglio, adesso mi sdraio sul divano, metto il volume basso e vi ascolto. E così ti conciliamo il sonno, così è. Lascia perdere, l'altro giorno mi sono addormentato sul divano 2 ore seduto sul divano, come sono adesso a fianco al baracchino, col volume un po' bassino, 2 ore dormendo a sasso. Mi sono svegliato che non capivo se era giorno o se era notte. Marco, prova a farti le analisi, perché non è normale il fatto che tu dorma così tanto. Magari a volte ci sono degli scompensi che ti fanno dormire, è probabile, capito? Io ti auguro di no, però è sempre meglio fare il controllo. Fatti controllare, fatti fare le analisi. No, no, ho deciso, Canovizi Bolzani, non ne faccio più analisi, Canovizi Bolzani, buon viaggio, dai, riprendete voi, vai Giulio. Ok, vabbè, non è così, non è così, oh Marco, che ancora sei giovane, giovanissimo anzi, rispetto a me soprattutto, che ho 30 anni e oltre più di te, e va bene, e ancora ci vuoi fare. Lo so, ogni tanto, ripeto, tutte le mattine c'è sempre un dolorino. Allora, sono già due giorni. Aspetta che mi stanno telefonando, scusa, riprendi. Eia, va bene, ehi, dolorini, oh yeah. Dolorini avevamo tutti, per carità, vabbè, comunque. Comunque, già va bene, dai. E quindi già, praticamente era il PTT del, ma delle cose, dell'MB più 5. E allora, questo è l'MB più 5, era il PTT che praticamente, come ne ha sfruttato lo stress, si è ripreso la lancetta e è andato a fondo scala, come ho prima si muoveva appena. E quello lì che faceva mancare la modulazione. Però ti stavo dicendo, dolorini, io mi sono fatto le latte alle mani perché non riuscivo più a svitare il tappo della bottiglia. Mi facevano male le mani, io ho fatto la latte e ho anche lì le artrosi. Sì, già. Artrosi, artrosi, la morte traumatoide noi, artrosi. Oh, iaia, non hai capito? Siamo fermi, fermi, fermi, fermi. E poi c'ho sempre le mani fredde in questi giorni, fanno male tutte le dita, anch'io ho problemi grossi, più di quelli, la mia è proprio artrite. Vabbè, siccome c'era anche mia figlia, ogni settimana fa la puntura alla pancia, quindi allora tocca a me fra poco. E vabbè, pazienza, ti abbigliellucci, quello che posso fare faccio, se no la cosa grave è che l'artrite reumatoide ti porta alla morte purtroppo, Anna Marchesini non è morta l'artrite reumatoide. Vabbè, pazienza, avanti Marco. Insomma, alla fine mi sa che qua sul canale quasi tutti ci facciamo le punture alla pancia, chi per una cosa, chi per l'altra. Porca miseria, no, a me fanno male entrambe le ginocchia, leggermente, 7 giorni un po' di più. Io sono troppo sedentario, sì, esco a fare la spesa, però in proporzione dovrei girare di più. A me mi ha fatto ridere una cosa quando ero a Milano lì all'ospedale, no? Mi hanno fatto mettere queste calze antitrombo, no? Quelle che stringono un po', stringono abbastanza. Calze antitrombo, dice, perché lei rimanendo sdraiato a letto per alcuni giorni, gli stavo per dire, ma lo sa che io vivo così, sdraiato a letto. Dite, ragazzi, calze antitrombo. È per quello che non trovi più. Ehi, antitrombo, sì, servono a non trombare quelle calze lì. Non ve la dite a pulire in capo? Così, bah, non lo posso dire, perché non si può dire. Comunque, va bene, va bene. Sì, ma è normale una cosa del genere, Marco. Hanno fatto anche a mia madre quando l'ho operata. Come si dice? Volevo dire in fretta e diciamo un problema all'anca, insomma, mi hanno messo qui. E cosa vuoi tu? Che ore sono? Certo, questo è già arrivato, a Parvizio alle 7:10, mi stanno chiamando al telefono che non ho WhatsApp, riprendi già. Eia dai, scappa. Marco, a parte gli scherzi, mi mettono perché dopo l'operazione possono subentrare i trucchi, capito? E lo fanno proprio per questo. Più che altro riguarda, cioè, per l'operazione, non tanto perché stai sdraiato a letto, ecco. No, se fosse per quello, voglia. Io a casa sto bene o male, la gran parte del tempo sdraiato o seduto, capito già. Ok. Poi brutte, sembrano delle giarrettiere da donna, cioè sembrano cazzo da peripatetica, ma tutte strane sono, tu le hai conosciute? Sì, che le conosco. Oh Marco, ti sto mandando un messaggio su WhatsApp, un secondo. le campane, come mai? Ma ritardo di... o in anticipo l'orologio mio, boh. No, è un ritardo perché c'era, come si chiama, un pietà, quella cosa lì.